Letture di Radio 24. In 20 anni di attività, il telescopio spaziale Hubble ci ha svelato molti dei segreti dell'universo e si è rivelato anche un'affascinante macchina del tempo. L'idea di base è semplice: collocare un telescopio sopra l'atmosfera per vedere molto più lontano e molto più nitidamente nelle profondità dell'universo. Era il sogno degli astronomi, che si realizzò il 25 aprile 1990, quando lo Shuttle Discovery mise in orbita il telescopio spaziale dedicato al grande astronomo Edwin Hubble. Esso doveva osservare oggetti troppo deboli per essere individuati attraverso l'atmosfera, oppure così caldi da emettere, anziché radiazione visibile, radiazione ultravioletta, che è schermata dall'atmosfera terrestre. A 20 anni di distanza possiamo dire che Hubble ha svolto il suo compito con risultati ben al di là delle aspettative. Il compleanno è l'occasione per un sintetico bilancio. Quello che noi sapevamo del cosmo, in 20 anni, è stato rivoluzionato. Il primo risultato è stato l'averci offerto la certezza che l'universo ha proprio 13,7 miliardi di anni, come era stato dedotto in modo approssimativo tramite osservazioni terrestri. Hubble ci ha poi mostrato che esiste materiale organico fuori del sistema solare, in particolare metano. Ciò significa che nei tanti pianeti extrasolari che vengono via via scoperti, potrebbe esistere una qualche forma di vita. Terzo, Hubble ci sta avvicinando alla soluzione del mistero della cosiddetta materia oscura. La scienza ha dimostrato senza ombra di dubbio che gran parte della materia di cui sono fatte le galassie non emette radiazione, non invia segnali, quindi risulta totalmente invisibile. Forse Hubble riuscirà a osservarla. Come? Usando le galassie medesime come lenti. Quarto, il telescopio ha mostrato che al centro di ogni galassia vi è un buco nero di massa proporzionale a quella della galassia stessa. Anche il buco nero è un oggetto incredibile, visto che la sua gravità è tanto potente che né luce, né radiazione, né energia possono fuoriuscirne. In compenso, il buco nero inghiotte tutto ciò che gli sta vicino. Ed è così che Hubble lo vede, individuando vortici di materia che inesorabilmente vi precipitano dentro. Infine, la scoperta più recente. È stato individuato l'oggetto più lontano mai visto, una galassia di stelle blu molto tenui, distante ben 13,2 miliardi di anni luce. Il tutto ci consente ancora una volta di ricordare come un telescopio sia anche una macchina del tempo. Individuare una stella lontana miliardi di anni luce significa vederla adesso come essa era miliardi di anni fa. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Ida Molinari, Hubble, il fotografo delle stelle, pubblicato da Famiglia Cristiana, in edicola questa settimana. Letture di Radio 24. Notizie sulla gestione dell'emergenza nucleare in Giappone sono di giorno in giorno più gravi. Una situazione che preoccupa e agita tutto il mondo e che introduce nel legittimo dibattito pro o contro il nucleare un aspetto emotivo molto forte. Le immagini che arrivano dal Giappone sono devastanti e strazianti. Due sono le reazioni che suscitano. La prima è che il paese avrà bisogno di molto tempo per riassorbire economicamente questa tragedia, costosissima in termini di vite umane, capitale fisico e infrastrutture. La seconda è che il nucleare andrà subito abbandonato e per sempre. La storia dei paesi colpiti da catastrofi naturali e belliche suggerisce però più ottimismo di quanto sia spontaneo dedurre dalle immagini che ci tengono incollati con angoscia alla TV. L'Europa uscì dalla devastazione della Seconda Guerra Mondiale con un balzo quasi miracoloso. La Germania, rasa al suolo dalle bombe, dopo molto meno del previsto, era una potenza industriale. Due economisti di Berkeley hanno dimostrato come il Vietnam sia risorto da un periodo multidecennale di guerre molto più speditamente e vigorosamente di quanto tutti si aspettassero. Dopo l'uragano Katrina che ha semidistrutto New Orleans, c'era chi diceva che la città sarebbe stata abbandonata. Già dopo pochi mesi, la città risorse e dopo pochi anni i segni del disastro sono quasi spariti. A queste considerazioni storiche va aggiunta la straordinaria risposta dei giapponesi a questa tragedia. Non si è parlato di nessun episodio di sciacallaggio. Aspettano in file ordinatissime i soccorsi. nessuna recriminazione e la capacità dei giapponesi di lavorare lunghe ore è ben nota. Tutto ciò fa ben sperare, ma un problema sarà il già elevato debito pubblico. Ovviamente per la ricostruzione ci sarà bisogno di un'enorme raccolta di fondi pubblici, ovvero un ulteriore stress per il bilancio giapponese, e questo sicuramente complicherà le cose. I tassi di interesse mondiali aumenteranno nei prossimi anni e paesi molto indebitati come il Giappone ne risentiranno. La seconda immediata reazione è quella di abbandonare ovunque e per sempre il nucleare. È probabile che ciò ponga altra pressione sul prezzo del petrolio, oltre alle crisi medio orientali. Se molti paesi dovessero rinunciare ai loro programmi di energia atomica, la domanda attesa di petrolio schizzerà trascinando verso l'alto il prezzo. Io non ho le conoscenze tecniche per giudicare la sicurezza di centrali nucleari in zone non sismiche. Non so quindi come valutare il rischio per un cittadino medio di un paese con centrali nucleari rispetto al rischio di guidare a 150 km l'ora in autostrada, o di fumare un pacchetto di sigarette al giorno, di praticare sport pericolosi, di prendere l'aereo e di contrarre gravi malattie contagiose. Non so valutare i rischi per l'ambiente di radiazioni nucleari nell'aria, o di incidenti come quello dei pozzi petroliferi del Golfo del Messico, o dell'inquinamento di città come Milano o Los Angeles. Sono però convinto che decisioni drastiche e definitive sull'energia nucleare non vadano prese sull'onda delle immagini così dolorose degli sfollati giapponesi. E quando queste decisioni saranno prese, non lo si faccia sotto pressione di questa o quella lobby, di questo o quel settore industriale. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Sull'atomo usare sempre il cervello», a firma di Alberto Alesina e pubblicato da Il Sole 24 Ore di mercoledì 16 marzo. Il prossimo 22 aprile sarà un venerdì santo diverso da quelli che ricordiamo, almeno da un punto di vista mediatico. Rai 1 trasmetterà, come ogni anno, la processione della Via Crucis, tradizionalmente guidata dal Papa. Ma nella stessa giornata, Benedetto XVI sarà per la prima volta ospite di una trasmissione televisiva per rispondere alle domande che gli autori avranno preparato per lui, prendendo spunto da quelle inviate dagli spettatori. Se Gesù era comunque un uomo, possibile che non si sia mai innamorato? Chissà se il Papa risponderà anche al quesito sincero che gli ha inviato Chiara, ragazza salernitana, tramite il web. Sul sito di A Sua Immagine le domande stanno affluendo copiose e presto saranno selezionate, accorpate in tre blocchi e sottoposte a Benedetto XVI, che risponderà in video durante l'edizione speciale del programma religioso di Rai 1 il 22 aprile, Venerdì Santo, alle 14:15. La notizia che il Papa aveva accettato l'invito del conduttore del programma, Rosario Carello, a rispondere in TV ad alcune domande su Gesù, ha fatto il giro del mondo. La notizia, come spesso accade, è stata anche molto gonfiata. Ho sentito servizi in radio che annunciavano la presenza del Papa in uno studio televisivo, pronto a rispondere in diretta alle domande del pubblico. Ovviamente non saranno queste le modalità della sua partecipazione. Benedetto XVI leggerà le domande inviate dai curatori del programma, ma poi registrerà le risposte nello studio del suo appartamento. Saranno i tecnici del Centro Televisivo Vaticano a effettuare le riprese. In Rai arriverà non il Papa in persona, ma una videocassetta preconfezionata. Detto questo, resta la novità di un Papa che mette la sua faccia all'interno di un programma televisivo, sia pure un programma di informazione religiosa, molto affidabile come A Sua Immagine. Contrariamente ai pregiudizi che girano sul suo conto, Benedetto XVI è un Papa moderno. Non ha mai demonizzato la televisione, ne conosce e ne ha denunciato i rischi, ma ne capisce ovviamente anche l'importanza, soprattutto se un Papa ha il desiderio di raggiungere quegli uomini e quelle donne, la maggioranza in realtà, che non mettono piede in chiesa la domenica. Il Papa aveva già accordato delle interviste a TV tedesche e polacche alla vigilia dei viaggi apostolici. Accettò inoltre di aprire la maratona televisiva della Bibbia in TV, spettacolare iniziativa inventata dal compianto Giuseppe De Carli nel 2008. Si è trattato sempre di programmi a carattere strettamente religioso. Non credo invece che Papa Ratzinger avrebbe mai accettato di prendere parte, sia pure con una telefonata in diretta, come fece il suo predecessore Wojtyła, al talk show di Bruno Vespa nel 1988. Non è nel suo stile. Benedetto XVI è innanzitutto un Papa da leggere. La sua forza sta più nel pensiero e nella profondità dei suoi testi che nell'immagine. Accetta sì di comparire in televisione, ma solo per parlare dei contenuti del suo libro, su Gesù. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Lucio Brunelli, Ma Gesù si innamorò? Una domanda per il Papa in TV, pubblicato dal settimanale Vita, in edicola questa settimana.